dietro le quinte di questa vita. La nebbia si scioglie in men che non si dica, e con lei va via anche tutta la fatica, gli sforzi per vincere questa partita. Questa è la vita, amico, questo della vita non è altro che un graffio, una ferita. Dimmi che la mia lotta non è una paglia, apro gli occhi e vedo il mondo allo sbaraglio. Yeah, this is real, come on, that is real, come on, check. Yeah, this is real, come on, that is real, come on. No war, come on, no war, come on, come on. No war, come on, no war, come on, come on. Il mondo corre veloce come un fiume in piena, tanto che non si ferma neanche a guardare la scena. O scena ricca di errori a catena, la gente vive con indifferenza piena. Allucinazioni, comizi di politicanti, parlano e poi pensano solo ai contanti. Basta, tutto ciò è un grande sbaglio, mi volto indietro e vedo il mondo allo sbaraglio. Se yeah, this is real, come on, that is real, come on, check. Yeah, this is real, come on, that is real, come on. No war, come on, no war, come on, come on. No war, come on, no war, come on, come on.